Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Salve, benvenuti alla nuova puntata di Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che da 8 anni racconta l'attualità e approfondisce le idee e le visioni del mondo dal punto di vista degli animali non umani. È la puntata numero 557. Questa settimana parleremo di circhi e di allevamenti, di sentenze favorevoli agli animali, di paesi esotici e ricchissimi, straordinariamente arretrati nella loro crudeltà. E parleremo anche di un modo semplice per ridurre l'impatto delle attività umane sul clima. Cominciamo dalle buone notizie. In Francia, la ministra per la transizione ecologica, Barbara Pompili, ma in Francia dovremmo dire Pompili, ha annunciato 3 misure importanti. Il divieto di utilizzo di animali selvatici nei circhi itineranti, il divieto di riproduzione in cattività di orche e delfini, il divieto ancora di allevamento di visoni. La ministra non ha specificato quando tali misure entreranno in vigore e tuttavia ha già delineato un piano che porterà nell'arco di pochi anni alla chiusura degli acquari e alla trasformazione dei circhi itineranti. Il governo ha infatti stanziato a tal fine 8 milioni di euro da utilizzare per la riconversione dei lavoratori di circhi, acquari e allevamenti. È giunta l'ora, ha detto la ministra, che il fascino ancestrale per questi animali selvatici non si traduca più in situazioni in cui la cattività passa prima del loro benessere. Circhi e altre realtà dovranno reinventarsi con il sostegno dello Stato. Fra le altre cose, si dovrà pensare alla sistemazione di circa 500 grandi felini, soprattutto tigri e leoni, che avranno bisogno di sistemazioni ad hoc. Gli allevamenti di visoni in Francia sono attualmente 4 e dovranno cominciare subito la propria dismissione. Inoltre non si potranno aprire nuovi acquari e delfinari e quelli esistenti dovrebbero cessare l'attività nell'arco di 5-7 anni. L'annuncio del governo francese è arrivato alla vigilia di un vertice dell'ONU sulla biodiversità come segnale di buona volontà, evidentemente, ed è stato accolto come un proprio successo dalle associazioni ambientaliste e animaliste che da molto tempo chiedevano simili misure. I divieti tuttavia non riguardano, nel caso degli animali selvatici impiegati nei circhi, le strutture stabili, non itineranti, e quindi qualcosa resta ancora da fare. Il vento, tuttavia, almeno in Francia, è decisamente cambiato e simili strutture si troveranno d'ora in poi di fatto fuori dalla storia. Finalmente. We'll be right back. consuete stragi nei boschi, nelle campagne e nei cieli d'Italia sono come al solito ricominciate a settembre e come tutti gli anni la stagione venatoria sarà segnata da una lunghissima scia di sangue. I cacciatori, d'altronde, sono una categoria ben protetta da leggi e regolamenti, indifferenti alla scarsa simpatia che la pratica venatoria incontra nella popolazione. Succede però a volte che gli amministratori locali, nel loro impegno in favore della caccia, cadano in errore e incappino in provvedimenti censori della magistratura. È accaduto in Sicilia, dove il TAR ha accolto un ricorso di Legambiente, WWF e Lipu e disposto la sospensione della caccia al coniglio, vietato gli abbattimenti di fagiano, starne e beccaccia, sancito l'integrale protezione della specie pavoncella e moriglione, tipiche delle zone umide. Ed è accaduto anche a Bolzano, o meglio a Roma, dove la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza della Corte d'Appello di Bolzano che nello scorso febbraio aveva condannato l'allora presidente della provincia Luis Durnwalder e l'allora direttore dell'ufficio caccia e pesca della provincia Heinrich Herrard per avere emanato decine di decreti che consentivano ai cacciatori altoatesini l'uccisione di migliaia di animali selvatici, fra cui volpi, marmotte e varie specie di uccelli, animali protetti dalle norme nazionali ed europee. La denuncia in questo caso era stata presentata dalla LAV, Lega Antivivisezione, la principale associazione animalista italiana. La Cassazione, respingendo il ricorso di Durnwalder e Herrard, ha confermato l'esecutività della sentenza della Corte dei Conti, secondo la quale i due ex amministratori provinciali dovranno versare 468.000 euro a testa nelle casse dello Stato. Questa pronuncia, dice la LAV commentando la sentenza, ribadisce che gli amministratori devono garantire la rigorosa tutela degli animali selvatici, in quanto considerati patrimonio indisponibile dello Stato. Questa sentenza, dice ancora la LAV, deve essere un monito per tutti coloro che pensano ancora di poter utilizzare gli animali selvatici favorendo gli interessi dei cacciatori. Così facendo, d'ora in poi, rischieranno di risponderne mettendo mano al loro portafogli. Qualche puntata fa parlammo della Svizzera e del referendum indetto per arrivare a una revisione delle leggi sulla caccia e aprire alla possibilità di uccidere legalmente i lupi. Ebbene, la nuova legge è stata respinta. Respinta di misura, 51,9% di no contro 48,1% di sì. Il lupo per ora è salvo. Il testo bocciato includeva un articolo che definiva il lupo e anche lo stambecco specie protetta regolabile, quindi di fatto avrebbe dato ai cantoni il potere di ucciderlo se il lupo ritenuto una minaccia per il bestiame prima ancora che avvenisse un attacco. I lupi avrebbero potuto essere uccisi anche se ritenuti privi di paura per gli umani. Un modo, secondo i sostenitori di questa legge, per insegnare al resto del branco a stare alla larga dai centri abitati e dalle persone. Il no al referendum conferma dunque la legislazione già vigente, secondo la quale l'autorizzazione ad abbattere un lupo non è rilasciata a titolo preventivo, bensì solo se il lupo ha ucciso più di 25 animali da fattoria in un mese o 15 se ci sono stati danni anche nell'anno precedente. Restano quindi queste regole, per il momento, a proteggere il lupo nella vicina Svizzera. Hey you! Get out on this dance floor! Dubai è la città che oggi, più di altre, condensa in sé le tendenze più radicali della società dei consumi. Cresciuta nel deserto degli Emirati Arabi Uniti, una federazione di piccole monarchie del petrolio, la città è diventata un tempio dello shopping e del lusso. I suoi grattacieli e le sue avveniristiche strutture sono frequentate per turismo dal jet set internazionale. L'intera città è un monumento allo spreco e al disprezzo per il senso della misura. Non sorprende perciò che le autorità locali, in vista di Expo Dubai, la rassegna che si terrà l'anno prossimo, abbiano pensato di ripulire in qualche modo la città dagli animali liberi. Una circolare diffusa a fine agosto dalla municipalità ha vietato a residenti e turisti di alimentare cani e gatti randagi e volatili come corvi e piccioni. Le associazioni animaliste locali denunciano che questa direttiva sta determinando una caccia spietata a cani e gatti per strada, animali che vengono catturati, a volte anche se muniti di collare, e soppressi nei cosiddetti kill shelters, oppure portati nel deserto dove vengono abbandonati a morire di fame e di sete. Il caso è stato denunciato da OIPA Onlus International, e fa venire in mente analoghe iniziative prese in altri paesi in occasione di grandi eventi internazionali. Mondiali di calcio e Olimpiadi in particolare sono stati l'occasione in Cina, come in Polonia, Ucraina, Corea del Sud, per compiere autentiche stragi di animali, letteralmente eliminati dalla strada per presentare agli ospiti stranieri città pulite e asettiche, secondo un'immagine di vita urbana piuttosto inquietante, ispirata a concetti di sterilità ed esclusività, una visione antistorica, un incubo più che un sogno, ma è un incubo molto coltivato nella società dell'iperconsumo. La ricetta della settimana del nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni è dedicata all'Alto Adige, sede fra l'altro di una delle radio che trasmettono da anni il nostro programma. Ricordiamo che Gabriele Palloni è autore del libro Cucina regionale italiana vegana, edito da Newton Compton. È un nuovo libro in arrivo, avremo modo di parlarne presto. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Are free, but you can give them to the birds and bees. I want money. That's what I want. That's what I want. That's what I want. Qualcuno ha nominato l'Alto Adige? E non vogliamo cogliere l'occasione per cimentarci in una ricetta tradizionale altoatesina? Gli Strauben, golose frittelle dolci dall'originale forma tortuosa alla quale devono il loro nome. Ed ecco a voi la ricetta in versione vegetale. Gli ingredienti per 4 persone sono 220 g di farina tipo 0, 30 g di farina di ceci, 150 ml di latte di soia, 100 ml di birra, 50 g di zucchero di canna, 20 ml di olio extravergine di oliva, 20 ml di grappa, 5 g di cremor tartaro, un pizzico di curcuma in polvere, un pizzico di sale, dell'olio di semi di arachide per friggere, zucchero a velo e marmellata di mirtilli per decorare. In una bowl unite il latte di soia alla birra e all'olio extravergine. Aggiungete lo zucchero di canna e il pizzico di sale. A parte setacciate la farina e quella di ceci. Aggiungete il cremor tartaro e la curcuma. Mescolando con una frusta, unite le farine alla parte liquida. Amalgamate bene il tutto e aggiungete la grappa. In una friggitrice o in una padella, scaldate l'olio di semi di arachide sui 170 gradi. Se immergendo uno stecco di legno da spiedino l'olio lo circonderà di bollicine, avrete raggiunto la giusta temperatura. Con un imbuto o una sacca à poche versate l'impasto nella padella, facendo attenzione a non ustionarvi, disegnando una spirale, creando dei cerchi dall'esterno verso il centro. Fate dorare bene e girate, lasciando cuocere anche l'altro lato. Una volta dorata anche dall'altra parte, scolate e fate asciugare su carta per frittura. Lasciate intiepidire e servite spolverando con zucchero a velo e accompagnando con marmellata di mirtilli. Con l'importante rapporto pubblicato nei giorni scorsi da Greenpeace, una delle più combattive organizzazioni ambientaliste su scala internazionale. Il rapporto si intitola Foraggiare la crisi e mette in diretta relazione le politiche europee di sostegno al settore agricolo e zootecnico e il peggioramento delle condizioni ambientali. Il rapporto dice che le emissioni di gas serra degli allevamenti intensivi rappresentano il 17% delle emissioni totali dell'Unione Europea, più di quelle di tutte le automobili e i furgoni in circolazione messi insieme. Senza una decisa riduzione del numero di animali allevati, dice Greenpeace, l'Unione Europea non sarà in grado di raggiungere gli obiettivi definiti dall'accordo di Parigi sul clima. Il rapporto documenta come le emissioni annuali degli allevamenti siano aumentate del 6% fra 2007 e 2018. Tale aumento, equivalente a 39 milioni di tonnellate di CO2, corrisponde all'aggiunta di 8,4 milioni di auto sulle strade europee. La zootecnia europea emette l'equivalente di 502 milioni di tonnellate di CO2 all'anno, includendo le emissioni indirette di gas a effetto serra, che derivano dalla produzione di mangimi, dalla deforestazione e da altre forme di consumo del suolo, si arriva alla gigantesca cifra di 704 milioni di tonnellate. Da questi dati emerge con grande chiarezza l'impatto positivo che avrebbe una drastica riduzione dei consumi di proteine animali. Greenpeace stima che il dimezzamento del numero di animali allevati consentirebbe un risparmio di emissioni dirette di 250,8 milioni di tonnellate di CO2, una cifra paragonabile alle emissioni totali nazionali annuali di Paesi Bassi e Ungheria messe insieme. Ridurre la produzione del 75% permetterebbe un risparmio di gas serra fino a 376 milioni di tonnellate di CO2, più delle emissioni nazionali annue combinate di 13 paesi dell'UE, e circa l'equivalente dell'impatto climatico totale di tutti i processi industriali di tutti i paesi membri. Insomma, l'invito a scegliere su larga scala un'alimentazione su base vegetale meriterebbe un convinto sostegno da parte delle istituzioni pubbliche, se davvero ci fosse la volontà di avvicinarsi agli obiettivi indicati dagli accordi presi per contenere l'emergenza climatica. Purtroppo ancora non si intravede niente del genere. La politica è molto lontana da questa consapevolezza. Questa settimana è tutto, vi saluta l'intera redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Roberta Marino, Francesca De Matteis, Giuseppe Coco, Gabriele Palloni, Zenone Sovilla, Gianni Ferrarotti e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. Per questa settimana è tutto, ci sentiamo fra 7 giorni, stessa ora, stesse onde. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.